Ecco, io penso che noi questa sera, noi di Alleanza Verde e Sinistra, lo diciamo una sola parola: unità, unità, unità in difesa della democrazia, unità in difesa della Costituzione, unità in difesa dei servizi pubblici del nostro paese che sono messi in discussione da questa logica privatistica, unità costruendo anche un programma che metta al centro questioni su cui penso sia complicato dividersi, dalla giustizia sociale alla giustizia climatica. E lo diciamo chiaramente, noi non poniamo veti a nessuno perché la situazione del nostro paese è grave e su questo dobbiamo avere la responsabilità di accogliere, di confrontarci, ma di essere uniti. Sarebbe imperdonabile ricommettere gli errori del passato, imperdonabili, per cui unità. Io avrei anche una soluzione per fare l'unità che almeno con me in questi anni non c'è stata. Se il programma lo scrive Lampi, secondo me l'unità ci sarà. Io lo dico non per pregiudizio, ma perché Salvini e Meloni hanno ricostruito un consenso di massa per la destra dopo la crisi del berlusconismo, rifascistizzandola, adottando tutti gli slogan, i frame narrativi tipici dei gruppi neofascisti, diciamo, quelli che noi vorremmo sciogliere. Ci attende una battaglia importante, perché poi l'unità non è una cosa astratta. Guardate che se oggi in Francia c'è il fronte popolare è perché c'è stata un'opposizione sociale di massa, di sinistra, di classe, della classe lavoratrice contro i governi che facevano politiche antipopolari che hanno fatto diventare Le Pen così forte. Perché noi ce lo dobbiamo domandare. Perché in Europa l'estrema destra e i fascisti sono diventati così forti? Ce lo vogliamo dire che se Giorgia Meloni guida il partito più votato dagli operai italiani, qualcosa si è sbagliato negli ultimi 30 anni? Io sono per farlo un fronte popolare. Ma che deve essere popolare? Scusatemi, l'agenda Draghi non era un fronte popolare, era un fronte antipopolare. Pure quella Monti, insomma. Grazie a tutte, grazie a tutti, grazie soprattutto a Lampi di aver organizzato questa splendida serata di confronto, perché permette di far vedere quante battaglie comuni possiamo affrontare insieme, unendo le nostre forze per attuare fino in fondo la Costituzione, per difenderla dagli attacchi che sta subendo. E per farlo dobbiamo ricordarci che ancora prima dei contro, che pure sono un programma diciamo importante, siamo quelli che vogliono costruire l'alternativa alle destre sui per, perché sono tanti per che sono emersi questa sera, sono tantissimi, per dire che sì, ci siamo e ci siamo insieme, anzitutto per difendere di quella Costituzione la sanità pubblica e universalistica dai tagli e dalla privatizzazione della destra di Giorgia Meloni, che non ha neanche il coraggio di ammettere che sta tagliando alla sanità pubblica e negando il diritto alla cura a veramente 4 milioni di italiani che non ce la fanno più a curarsi. Io credo che una parte delle persone che non vanno più a votare non ci vanno perché non vedono, quando siamo divisi, un'alternativa solida e credibile. Allora diamogli questa alternativa solida e credibile. Unità, unità e unità.